diciamo, propagandando anche la manifestazione di domani. Certo, domani ci sarà una grossa mobilitazione, una mobilitazione che avrà varie facce secondo noi e secondo la nostra analisi rispetto a questo. Noi come comitato di lotta di cassi integrati e licenziati di Pomigliano abbiamo deciso di buttare un sassolino nello stagno, fatto di partecipare a delle manifestazioni di qualsiasi identità e di tornarcene a casa senza un nulla di fatto, a noi non ci va più bene. Noi diciamo che come provocazione, la vogliamo dire, abbiamo fatto uno striscione direzione Parlamento. Lo riteniamo un obiettivo, sarà giusto, sarà sbagliato, ma noi a questi politici di destra, di sinistra, cioè, non li vogliamo più, questi se ne devono andare. Ormai le nostre condizioni di vita, non solo in fabbrica, ma anche al di fuori, sono diventate proprio precarie al massimo, se non riusciamo veramente non arrivare alla fine del mese. Qua ci sono compagni che ormai si stanno facendo i debiti per andare avanti e mettere un piatto di pasta sulla tavola. Noi a questo non ci stiamo più. Questa crisi avanza, gli attacchi nei nostri confronti sono duri e noi vogliamo rispondere con la stessa durezza. Domani a Piazza Sedra a Luna faremo un'assemblea, abbiamo indetto un'assemblea, abbiamo fatto dei comunicati, ci hanno risposto in molti, perché riteniamo che quel corteo non può e non deve diventare la passeggiata di Vendola e di suoi amici. Noi non ci stiamo, è per questo che come comitato di Pomigliano, della piazza di Pomigliano, diciamo che domani ci deve essere una particolarità in quel corteo, una differenza tra chi vuole cambiare realmente le cose e chi vuole andarsi a sedere al posto degli altri sulla poltrona parlamentare. Noi a questo non ci stiamo e marcheremo la nostra differenza in piazza e lo diremo ad alta voce. Pronto Mimmo, ci siamo. Pronto? Sì, ti sento. Ah, benissimo, oggi è stata una giornata un po' particolare dal punto di vista tecnico. Senti, Mimmo, ecco, una cosa però volevamo chiederti. Tutto questo succederà domani, ci hai raccontato un po' lo spirito con cui arrivate a Roma, quello che avete intenzione di fare. Le prospettive per l'immediato futuro, quali sono? Come vi muoverete, insomma, a partire da lunedì prossimo, anche in vista magari del fatto che l'attenzione mediatica potrebbe calare su quanto sta avvenendo in questo weekend, no? No, ma figurati, qua dipende tutto dalle questioni mediatiche, dipendono i poteri forti cosa vogliono fare rispetto a queste cose. Noi pensiamo che la prospettiva dopo il 15 deve essere quella di un ragionamento, noi ci stiamo provando. Noi, per esempio, faccio un esempio, ci siamo visti in questi giorni con i disoccupati di Acerra, ci siamo visti con i lavoratori dell'Assis, ieri ai cancelli sono i lavoratori del porto di Napoli. Cioè, pensando pure ad un coordinamento, ad un collettivo operaio, cioè qua non è possibile che chiudano decine e decine di fabbriche e non si muove una ciglia. Cioè, ma noi critichiamo anche il sindacalismo di base, poi è possibile che ancora una volta non si cerca di sensibilizzare o di mettere a punto la base. Cioè, noi rispetto a queste organizzazioni nazionali veniamo messi fuori dai capi di qualsiasi organizzazione e dobbiamo stilare in base a delle regole che ci dettano loro, ma noi a questo non ci siamo. Cioè, il sindacalismo di base, dove ancora oggi noi teniamo la tessera, deve stare attento a questa situazione, perché non è possibile, noi non accetteremo più che quando si fanno delle iniziative, ci sia un'organizzazione rispetto a qualche diciamo iniziativa, la base viene fatta fuori. Noi a questo non ci stiamo, perciò noi ci stiamo muovendo sul territorio, ma da un lato abbiamo accantonato la sigla sindacale, non ci interessa, perché se la sigla sindacale non riesce a capire quello che sta succedendo attorno a lei, quello che viene succedendo nelle fabbriche, vuol dire che c'è una arretratezza di mille anni. Noi ci organizzeremo, non a caso noi abbiamo avuto il coraggio come comitato di lotta di Pomigliano di indire delle iniziative a Napoli, di organizzare una cosa alternativa lì domani a Roma e di rimetterci, diciamo, di rimetterci la faccia rispetto a tutto quello che sta succedendo. Da un lato questo, dall'altro noi non siamo più disponibili a farci le solite passeggiate di propaganda, cioè noi non ce la facciamo più, quindi siano attenti tutti quanti, perché noi vogliamo andare oltre quello che sta succedendo, noi vogliamo andare oltre, c'è casa, hanno famiglie che non ce la fanno più, operai che non riescono, c'è casa, si muore ancora sulla, sui luoghi di lavoro, qua ci sono 3-4 morti al giorno, e certamente non sarà il presidente Napolitano con le sue piagnistee a dirci cosa dobbiamo fare o cosa devono fare i padroni. Noi non ci siamo scocciati, veramente. Se lo mettono in testa tutti quanti che noi ci siamo scocciati. E ovviamente puntiamo ad un'organizzazione trasversale, al sindacalismo di base, ai sindacati di Stato e ai partiti politici di destra e di sinistra, tutti, a partire dai gruppettini politici, Ferrando e tutti quanti gli altri, Ferrero, non ci interessano più. Cioè, noi non vogliamo la sostituzione del potere, che cada Berlusconi e vadano questi signori a governare. Questi saranno peggio degli altri.